vita mia vicino a te. Mi scordi il mondo e tu lo sai perché. Per dirti ancora nei pochi miei che cosa sei per me. Una sola ti vorrei per dirti quello che non sai ed in questo ragionerei la vita mia per te. In quest'ora vive l'eternità.